Dici? No. Avanti, chi è? Mi senti, Natalino? È basso, aspetta che alzo un po' il volume. Chi sei, Marco? Ah, Luca, sono Natalino. Qua sto facendo, aspetta che aumento un po', vediamo un po', guarda adesso. Adesso già è 5, cioè il volume è basso. Basso io. E allora, allora? E allora, 60 minuti. Meno. Sì, è pure giusto. Andiamo bene. Andiamo. Ma mi è sembrato di sentire Giulio che ero in sala. Mi è sembrato di sentire Giulio chiamare. Giulio. Poi dice che chiama, che è qui, che è là, che lui c'è. No, io veramente non ho sentito solo a te la verità. No, già l'ho sentito io, sì. Ero in sala. L'ho sentito, ha chiamato. E magari non arriva qua, capito? Io ho l'antenna in terra praticamente e se no, se c'è basso non lo sento a Giulia. Che t'ha già detto? Tutti vogliono uscire con mezzo basso per non disturbare, che t'ha già detto? E io me ne sbatto di disturbare. Adesso non le scatole piene, adesso sono a manetta, una puttinuda. Tanto alle 7:30 spengo per non disturbare. E cioè alle 7:30. Me ne vado anche prima perché devo cucinare, quindi devo preparare la cena e verso le 7:15 me ne vado. Sì, ma qua già si altro il segnale. Perché adesso essendo più bassa l'antenna disturba di più, dice. Praticamente lo piglio in pieno. Qua c'è 9:20. E vabbè. Solo che siamo vicini noi. Magari con Giulio mi viene più male, io sono in basso. E più c'è l'antenna bassa pure e quindi non lo ricevo come dovrei riceverlo. Vabbè, se riesco a metterla sul tetto l'antenna, vediamo un po'. Sennò è un macello. Sì, 9:05 senza preamplificatori inseriti. 9:20 con i preamplificatori inseriti. E ho capito. E io dovevo, purtroppo. Di più non possiamo fare. Metti la tua radio che c'è già, c'è l'altro amplificatore. E lì c'è non ha preamplificatore, lì c'è un baracchinetto così. Tanto, cosa vuoi buoni? E poi lui, cosa vai? Ecco, cos'era? Gesù. Non c'è più nulla. C'è solo quello lì che sto usando adesso, l'avevo giù un borda che non andava a carruccio, un paio di ricevitori, non c'ho altro. Cosa di mi va intanto? Mi ha giocato pure a Santenni, che si chiama Viu. Io ho lasciato solo quella della 27 pronta a metterla sul tetto, se me la fa mettere. Se non mi la fa di buoni, quando mi rompo il cazzo mi aggavo di ridotto. E ciao padru, non lo va a misticciare con nessuno Luca, perché se a mia dillo è peggio, mi fa male alla salute, già ho avuto un infarto, figurati se mi posso incavolare. Se me la fa mettere bene, se no me la tolgo e basta, mi procurerò qualche altro ubi che non mi devo adirare. Vabbè, metti la cosa, metti. Ma un antennino comunque già lo puoi mettere sempre, se in caso quella lì è troppo pericolosa. Ma una Grand Play, una boomerang. Ma cosa metti una boomerang? Se la sali troppo, poi diventa pericolosa. Invece questa, cioè il palo da 4 metri, zingato d'acqua, bello grosso. E sul tetto, li lascio quei 4 metri e boh, se riesco a metterla sul tetto. Non pongo a cantenne, nuda. deve essere sicura la cosa, non vi voglio stare più da voi, non te la capisci più. Cazzo, una volta è buono. Non mi interessa intanto per altre cose, già lo sai, mi hanno disgustato, quindi non sto più né ascoltando nulla, ne ho tolto tutto proprio. C'è solo l'antenna della 27 e basta. Quella bibanda mi si è rotto un radiale della X30, più c'ho una di quelle bazooka, una per il PMR, però le ho tolte. Cosa me ne voglio? Tanto non puoi neanche piano, poi va nuda, a chi si ribiazzi, come si va? Diventa più pesante il tubo e basta. Invece voglio lasciare solo l'antenna della 27, se me la fa mettere sul tetto, e se no ne la tolgo e mi vendo burrita, poca cosa mi è rimasta. Ma tu eventualmente sei già dove piazzare? Lì te l'ho detto, ci vorrebbe o una scala aerea oppure un ragno, dipende da come devi piazzarla, dove devi piazzarla, anche il ragno basterebbe, che entro nella via, capito, sotto sopra. Ma devi sapere, avere già tutto pronto. Ha detto che apre la botola lui per salire sul tetto, anche lui ci deve fare l'antenna della TV, che deve essere un'antenna di 40 anni fa, marcia, lo disturbo per quello, se no io la televisione mia non la disturbo, anche con l'antenna bassa non la disturbo. Ma ho capito perché l'avevi sistemato collegandolo alla tua antenna. E dice che lo disturbavo ugualmente. Cazzo, cosa vuoi ti dica? E mi faceva rispetti, me ne stava cadendo l'antenna. Cosa giocava? Che facevo cabaca a qualcuno e mi tocca pagare lo babbono. Questo qui è una persona che non ragiona, non c'è nulla da fare. O rubi gli aravona, ti la fai buono in alto alla cabiciuria, c'è una casetta lì, sopra il tetto, che lui c'è la finestra. Ma piazzo lì l'antenna dove c'è piazzata la sua. E siamo a posto. L'ha piazzo 4 metri in alto, e non ricevo più a nessuno. E in più ricevo quello che devo ricevere. Mi compro il cavo nuovo proprio per avere la cavallata nuova. E siamo a dama. Se me la vasi biazza. Sì, no, mi la vasi biazza. Mi la varu. A chi usi non è possibile modulare. Se non senta nessuno, solo i più vicini sento. Sì, ma il problema, Natalia, se tu la piazzi sul tetto e comunque li fai TVI lo stesso, è un casino, non te ne vuoi più. Ma come faccio a fare il TVI se la piazzo 4 metri più in alto dell'antenna sua? E poi lui l'antenna ce la deve mettere nuova, perché se no è logico che gli fai TVI. Se pratica, chissà di mia moglie di 40 anni fa, me ne farà da in capo a me, ma mi c'è videggia. A chi si è praticato burrubaru e ne farà dalla sola anch'io. L'antenna mia dalla televisione nell'altro palazzo, perché qua non ci potevo salire a metterla. Se tu arrabbi abusivamente, a chi vela la botola? Io quando tempo fa c'era un'altra persona in affitto lì, che era amica di mia moglie, sono salito e ho visto la botola che c'era. Avanno vinne, tutto arrabbi. Sì. Ma mi ricordo che tu mi avevi detto che era il problema non tanto nell'antenna, perché poi lo disturbavi lo stesso, ma nella televisione sua. Sicché io sto dicendo, se poi lo disturbi lo stesso, perché lui c'ha talmente questa televisione messa male o vecchia, quello che è, giustamente devi fare tutte le prove, anche se la metti più in alto, anche se lui cambia l'antenna TV, ma se no c'è un malo televisore, A me se me la fa piazzare sul tetto, poi se io lo disturbo non me ne sbatte un cazzo, mi denunci, faccia quello che vuole. Se mi fa dispetti che mi rompe l'antenna da sopra il tetto, mi paga per nuovo, perché lo denuncio e lo rovino. E poi denuncio anche il padrone di casa che ha fatto chiudere la botte abusivamente. Stiano attenti, perché una volta che ce l'ho sul tetto, se mi tocca l'antenna, l'indomani sto andando in questura e dopo denunziando, voglio di danni, perché mi metto l'avvocato e l'orlaccio, le mutande da culo me le tolgo. Sì, caspita, come fa? Cioè, dovrebbe aprire poi la botola, tutto quanto per salire a farti il dispetto. L'unica cosa sarebbe anche calare il cavo da un'altra parte, oppure calarlo dentro a un tubo in modo che lui non riesca a tagliarlo, comunque sia. E infatti farò le cose fatte bene. Caro, hai capito? Che se lui mi do quarantena da voi, le mutande gli tolgo. Perché mi metto l'avvocato, cazzo, lo faccio nero nero, deve scappare lui, se mi tocca l'antenna una volta che è sul tetto. Perché allora lo denuncio veramente. Certo, qui c'è una scalera, è l'unica, senza scala di visita dove macchini giù. E se avessi trovato una scala aerea a poco prezzo, avrei comprato le staffe prima e avrei messo le staffe col trapano, col chimico, come ho messo queste qui, gli ho messo quelle barre filettate da 14, i miei barri sono ben grossi, va giù la punta e tutto, li rubrabbano. Con dei bulloni grossi sono staffe consistenti. Se avevi avuto la possibilità, non va più questa sai a tarti l'antenna. A capire via stato subito dai noghi mi avevo bigliato la prolunga boom, e mi avevi alzato il drabano e tutto. Mi avevi alzato la corrente, l'avevo bigliata dai noghi. Avevo fatto 4 buchi e via, 2 staffe belle grosse, l'avevo piazzata ed è dominile ciduto da mezzo. Da voi io se ce l'avevo voluta buonì, l'antenna ce l'aveva butta, e se no venire ciduto da mezzo. A chi si mi toccava l'antenna da voi guai. Una volta che sul tetto se mi tocca l'antenna lo sto denunciando. Ma di brutto mi lo denuncio io per danni e poi mia moglie che è proprietaria della casa mi dà 2 denunci pure. Chi l'ha danneggiato pure l'antenna sua dirà di pure, dico. Non lo vedi che se voglio mi metto l'antenna TV sotto il palo dell'antenna mia. E mi la dico dal baro di Ghidi. Però la dago cosa me ne ha fatti. Finta che dura. Sì. Lascio un secondo di bianco sempre per vedere se vuole entrare qualcuno. Sì, Natali. Infatti perché se no, cioè non è che tu paghi una scala aerea da buio, tu ti vasi di fritti, sei a ti guccia da scala aerea da buio, e da buio magari è subito ti vasi di fritti. Ma te immaginaci? Bisogna stare attenti che lui non arrivi a tagliarti il coso, il cavo, perché quello è capace di tagliarmi il cavo, mio, ho eliminato un bel di cavo, mi ero tutto gribato. Ed era cavo buono, mi 203 di quello messi e paloni mi era. Infatti c'è poco cavo qua, l'ho dovuto eliminare quello tagliato, capito? Sì. Infatti, se mi piazzo l'antenna sul tetto devo comprare il cavo nuovo per poter arrivare dall'antenna a qua. E poi un tubo, perché se sei costretto a accenderla lì davanti vicino alla sua finestra sei costretto a metterla dentro un tubo, il cavo, per ripararlo. E infatti, a chi c'è da voi mi vado di fitti, cazzo, allora è arruinato davvero. A chi lo so di non tieni subito. Se spendo i soldi li spendo con cognizione di causa, no? Infatti, perché poi sono spendi i soldi e chi tu dopo ti batti di pitti. E immagini, poi magari apre la botta e sei sul tetto a fare il dispetto e tu hai pagato la scala aerea. Ehi, lui ha detto che apre la botola. Adesso come lo vedo glielo chiedo, ma c'è la botola, cambia chi l'abri. A chi oggi non c'è né in terra, gli dico. Mi dia, vanno va giù il tempo, quando va a parare giù il tempo, e per noi non posso stare così, mi dico. Io mi vedo una scala aerea e me la piazzo io l'antenna, e poi tu quando la vuoi, apri la botola, l'apri. Adesso chiedo a Coso che è venuta una scala aerea qua, un furgone con la scala aerea. Per aggiustare il tetto di quelli dell'altro, quelli di fronte. Non so cosa dobbiamo raccontare. E vado domando a Ruaghi Suduttori, a quello che gli hanno aggiustato il tetto, e gli chiedo chi sono e quanto gli hanno preso. Aspetta che vedo anch'io questo amico mio. C'è un terzo piano quello, quarto piano col tetto, così. Tre appartamenti, vedo. Terzo piano. 10-11 metri bisogna salire. Sì. E poi l'antenna va a un bullone, la volo e nera diru. Ma te si dà quella scala aerea, nera diru e ci butti sopra il baro. Ma pesa nuda intanto. Che è già attaccato al baro di 4 metri. Ma l'ho andato a qui. E me la tiro io l'antenna, direttamente con la scala aerea, e portiamo su il palo e lo fissiamo alle zappe e non si muove più da chi, senza né tiranti né nuda. Con 4 metri basta, no? Sì, bisogna vedere dove la vuoi mettere, come è fatto quel muro dove la vuoi ancorare. Natali, c'è anche quello da vedere. L'hai visto tu come è fatto quel torrino, sei foratini e che staffe si possono mettere, non c'è niente lì. Quelle che ho messo qua, in oghi e tuffu addirittura, in oghi è fatta di tuffu. La giubbocio che si va a riviletare con un chimico, una bomba, so, che si tratti. E poi sono staffe grosse, quelle che ho messo io. Le compro uguali a quelle. Lo so, però prima di ancorare devi vedere com'è il muro, se è tuffo, ok, capito, bisogna vedere che com'è il muro, perché magari sali con il chimico e ti trovi dei foratini marci e devi uscire con una gabbietta e vedere un po', capito, bisogna vedere com'è quel coso, non si vede, ma la foto stavo guardando, ma non si capisce com'è fatto. Secondo, come è fatto? Io gli ho messo quella gabbietta in gomma mia, quelle barre filettate, e poi ci ho messo il chimico, guarda, una brida è diventata. Se è muro pieno non c'è bisogno della gabbietta, se è muro pieno però calcestruzzo o tuffo pieno, capito? Non c'è bisogno della gabbietta, è importante sia pulito bene. La gabbietta ci vuole se è foratino, capito? Cose del genere, perché poi lì dentro si espande, capito? Infatti, bisogna vedere come te su quel muro lì, essendo suo anche, a te la fase bonire un muro suo, mi ha detto che è il suo quel muretto, così? Il suo, lui è affittuario, è il padrone di casa, ha detto. Ci deve cagliare molto burro, se no lo so, quindi non tiene, allora ve la posso aprire a forza la ottola, ve la posso aprire. E sì, che tu stai andando a collegarti al muro del suo padrone di casa. Ma perché non ci buttate tutto? E a coccio so, Marco, dai, vi lascio che vado a accendere l'acqua e che devo fare una passeggiata favolosa. Favolosa è quando la saggiamo noi, di vero Marco? Ciao Natali, sono uscito adesso dalla doccia, ho sentito le voci, le vocine qua. E cosa è successo? Roba nuova? No, non è successo nulla. Fatelo raccontare da Luca cosa stavamo parlando, devo prepararmi la cena, se no non mangio. Ciao, dai, vi ascolto. Sì, Natali, ciao, buona preparazione. Allora Luca, avevo visto le foto dell'arrosto, però sai cos'è, non è che riesco a commentare ogni singolo messaggio, perché sai, mi arrivano da te e da altri, dovrei stare sempre col cellulare in mano a commentare foto, video e tutto. Secondo me. Ora, prova. Prova. 1, 2, 3. Manchester Radio, per carità. Prova 1, 2, 3, prova. Eccolo qua. Oh Marco, piuttosto dimmi com'è questa capsula. Sul baracchinetto piccolo, ma sembrerebbe buona. LMP4, ho messo una capsula da RCF di un microfono di quelli da studio, diciamo, che avevo qua. Sarà sempre meno barattolosa della sua. Sì, naturalmente ho alzato un po' il volume, cioè non avete modulazioni molto alte, per fortuna. Sennò già cosa fai? La modulazione è troppo forte, ti stanca l'orecchio, capito? Per parlare va bene così. Anzi, credo non ci fosse nessuno, mi sono uscito dalla doccia, c'ho ancora l'accappatoio. E così ho sentito l'attalino che si lamentava dal vicino, tanto per cambiare, ho detto mamma. Stiamo organizzando. Così è più bassa la modulazione, è vero Marco? Forse appena di più, un po' più bassa. Stavano organizzando, perché sennò l'unica è la scala aerea, lui si deve mettere il cuore in pace, organizzare la scala aerea, organizzare il materiale, la mano d'opera lo sa che non gli manca, l'unica è fare così, così è tranquillo, la mette come vuole, eccetera, eccetera. Sarebbe stata montata e dimenticata. Sì, ma la scala aerea è molto costosa. Lì ognuno fa il suo prezzo, bisogna vedere, secondo me vogliono vedere anche dove devono operare, credo. A costo di contribuire, l'importante è mandarla vinta al vicino. Anche perché lui ha detto la bottola, ma tu ti fideresti a mettere l'antenna nella sua bottola sul suo tetto, e questo appena li gira, perché li gira dalla mattina alla sera, ti impedisce l'accesso, cioè fa danno e ti impedisce l'accesso e non puoi più accedere alla tua antenna. Io non mi fiderei. E infatti il problema è quello che gli stavo dicendo, sai che tu chiami la scala aerea e poi questo apre la bottola, sale, ti fa il dispetto, ti taglia il cavo, cioè non è che ogni volta tu devi chiamare la scala aerea e pagare un sacco di soldi comunque, perché comunque se le fanno pagare queste scale aeree. Capita, già ricuccia. Sì, vabbè, gira è meglio lasciarla sul palo di prima, magari più alta, anche quello se vuole fare danno a tirante o cavo o al palo lo fa. Bisognerebbe impiccarlo al palo alto con la scala aerea, capito? Così ha finito di fare scherzi. E magari poi una volta che c'è la scala aerea gli chiede se li monta l'antenna della televisione, se è stato freco. No, gli ho detto al cazzo t'attacchi, scusando il termine per chi ascolta, ma mi è uscita spontanea, capito? No, appeso lì al palo, così fa da contrappeso all'antenna, in tutti i sensi. Il problema è se questo è sempre impegnato, perché io gli ho detto diglielo quando vuole, quando è pronto lui ci dice il giorno, organizziamo, facciamo, apriamo la bottola, togliamo le tegole, montiamo le antenne sia la sua che la tua e poi chiudiamo tutto, però se non è disponibile questo qua è un casotto, sì, perché giustamente Natalino dice io non posso stare così, mi dice la mettiamo, apriamo e non si decide mai. Ma poi non ho capito, è sempre impegnato, ma è sempre attaccato alla TV e non la vede mai questo, non fa altro scocciare Natalino, dove è impegnato? Cos'è il gioco, lavorerà, cos'è il suo? E purtroppo il vicinato è quello che, quindi tu sei fortunato che c'hai lì un bijou, cioè lì c'è il padrone, non devi rendere conto a nessuno, puoi anche arrostire in cima, tanto il fumo va in alto. Ecco, beh, cosa buona e giusta. Ma questa radio esce, io solo l'autoascolto, ma mi sento a malapena. Vabbè che ho modulato, ma la modulazione è normale o è troppo bassa? Perché qua di più non fai, anche dal menu di servizio, non puoi aumentare più di tanto, è già a manetta, ma resta sempre in quei limiti della modulazione, credo. Sì, no, già stai facendo bene. Normale, sì, non è amplificata, diciamo, però va bene. Chiara. Così è un casotto. Poi io metterei un'altra antenna, perché con quella lì, dovendo usare una scala aerea e ti dura quello che ti dura, cosa succede? Devi richiamare la scala aerea, toglierla perché il vento l'ha rotta o... Io parlo abitando lì, capito? Non come me che sono qui, salgo quando voglio, poi non ho mai disturbato nessuno, mai nessuno è venuto a dirmi, e qua ci sono le antenne TV del bar, pensa, c'è anche quella del bar qua sul tetto, del vicinato, di un condominio di qua stesso del palazzo, però mai nessuno è salito a dirmi, quelli di fronte, guarda che mi stai disturbando, mai, mai, mai, mai. Sì, io ho fatto le prove qua, avevo chiesto anche a quello dell'ultimo piano che c'era molto vicina all'antenna coso, con lineare, ho provato senza filtro, lineare, tutto, niente, non... qua, anche se c'è stato un episodio, o era sporadico, o era uno scherzo dei soliti notti, capito? Poi tutto pace, nessuno ha detto niente, fatto niente, quindi sicuramente era una balla. Beh, ti stavo dicendo, infatti, io fossi in Natalino, monterei un'altra antenna, tipo Mantova, quelle robe lì, capito? Piuttosto che quella. Perché un conto è se c'è la botola e sali quando vuoi, un conto è con la scala aerea che ti si rompe l'antenna per il vento, perché quelle antenne lì sono così. Certo che Luca, però il peso c'è, cioè anche se non è la sua, anche se metti una Mantova, un'antenna pesante, e tu dici vabbè, metti i tiranti, i radiali, non so, devi andare a quel punto, devi andare oltre il tetto di quell'altro, cosa che con la scala aerea uno lo fa, oltre il tetto per via dei radiali, capito? E comunque troveranno sempre da dire, perché addirittura questo con l'antenna buona di Natalino dice che prendeva disturbi, con l'antenna perfetta di Natalino, quindi ho il decoder che è, diciamo, un pessimo, non è filtrato, cosa resto io? Perché uno dice che col digitale terrestre non si disturba più, non si può disturbare, non vedo perché, basta che il ricevitore, che sono tutti cinesi, siamo fatti a cacchio di cane, ti faccio il paragone terra terra, i Bao Feng, i Bao Bao, tu li metti l'antenna esterna e diventano muti, prendono un battimento da radio FM, cellulari, forse ripetitori TV, prove fatte e rifatte, con l'antenino normale vanno bene, metti l'antenna alla macchina anche corta, battimento zero, provato con Gianni e il testimone lui, al San Francesco. E quindi io immagino che alcuni ricevitori digitali terrestri ci hanno fatti molto ma molto male, che abbiano delle pecche a livello di filtraggio, non lo so. Esatto, esatto, ma scusa, l'ha collegata la sua cosa, ma io dico, hanno verificato che c'era il disturbo, oppure questo ha detto anche se attaccata la tua antenna mi disturbi lo stesso, o è vera questa storia? Perché sennò io prendo, ti compro un televisore, ok, ce n'è in giro di questi 32 pollici a 50 euro, prendo, ti compro un televisore usato, un 32 pollici, top, avanti, tolto il pensiero, scusa, spendi 50 euro, non ne spendi di più in scala aerea, cavo e balle varie. Sì, allora, a quanto sapevo io, questo dietro concessione di Natalino si è attaccata l'antenna buona di Natalino. Allora, Natalino disturbi zero, zero di zero. Questo dice che vedeva male la TV. Cioè, immagino quadratura, sparizione dell'immagine, quindi a questo punto il livello di ricevitore suo non è possibile. Antenna nuova, era la stessa di Natale, Natale nulla e lui non vedeva nulla. Sempre che sia vero, sempre che sia vero. Scusa, E poi comunque se l'avrete, guarda, ti compro, ti proviamo una televisione, Natalino lo sa, basta chiedere, se non ne ha una lui, basta chiedere. Si va con una televisione, si piazza una televisione, prova, non disturba, pronti, te la compro io una televisione, avanti. Ok, a posto? No, ma io, vabbè, hai ragione. Quello Natalino non credo che abbia visto a casa sua se disturbava. Magari roba inventata anche lì, non lo so. Poi che ne so io se il segnale era disturbato davvero, il segnale dico, o se entrava nelle casse, negli altoparlanti della televisione. Perché può capitare anche quello. Anch'io, per esempio, quando avevo quell'apparato tremendo che era una fabbrica di disturbi, infatti lo usavo in macchina, più che altro. Entravano nelle casse di un computer, sai, le casse esterne classiche, e infatti non ho più usato, l'avevo provato a casa, e l'Omega Force, quelle americanate sono una fabbrica di disturbi, sono delle porcate che vanno bene per camionisti, vanno bene, ma in casa non le puoi usare se vuoi convivere civilmente, cappa. E comunque io non gli avrei comprato il televisore, no, non esiste proprio, questo che ne so io. Magari avanza ulteriori, non lo so, in futuro può dire, ah, vedo male anche con questo. mi deve comprare un altro televisore, quello se lo vende, lo ne so io, se possibile. Infatti bisogna contattare, perché una volta che contatti, che costo, ma guardando lui però, che non disturba, vedi che è a posto, guarda, sto trasmettendo, ok, watt, mica watt, vedi, tutto a posto, la vedi, ok, a posto siamo, basta, capito, basta, scuse, non ce ne sono altre, se ti disturbo mi chiami, salgo e vediamo se ti disturbo. Io. Ma poi se lui ha tanti problemi, allora che chiami chi di dovere, faranno le misurazioni, Apparino si tiene l'omologato ovviamente, no? Ce l'ha, faranno le misurazioni, dopo che vedono che non c'è niente, dice tu dici, e quello continuerà a rompere le balle, vabbè, può darsi pure. Se non lo disturbi c'è poco a rompere le palle, no. Un casotto, soprattutto se, ripeto, se si chiama la scala aerea e poi lui sale dalla botola e gli fa il dispetto. Quello è un casotto veramente. Ma dicevo, ma per il peso dell'antenna, cioè alla fine lui perché dovrebbe togliere quella? Intanto diciamo non è altissima, non è esposta come poteva essere a quelle di Gianni, no? Che c'aveva il mare di fronte e gli arrivava il maestrale a bomba lì. Lì per quanto a superare il tetto e tuttavia è risulta bassa come antenna. Non so quanto gli convenga mettere l'antenna presunta con radiali. Non saprei. No, 4 metri stava dicendo Natalino, perché lì c'è un muro dove c'è appunto attaccata l'antenna, l'antenna TV, mi sa. Natalino vuole mettere in quel muro lì, capito? Almeno a 4 metri mi stava dicendo, un tubo di 4 metri. Infatti ho detto, bisogna essere, nonostante la metti lì, lo disturbi lo stesso, perché può essere anche il cavo che poi va a disturbare il suo, la sua cassetta dell'antenna, Canisa. Guarda, io non saprei. Fatto sta che Natalino erano già andati a controllare le emissioni, nonostante il baracchino forse non ci è, ma lì, cioè, non, poi Natalino non è linea romane, non l'hanno capito, Natalino non è linea romane, lui per parlare con noi usa 2 watt in città. No, se non sono 4, sono 2, lui può abbassare. Questo è perché Natalino usa i potenziometri, capito? Non li può usare i potenziometri. Allora, quello è. Si cambia la marmitta. Si usa questi pulini, è fissato con queste cose, Natalino. Natalino è kilowattaro. Proprio lui. Lui è vattaro, lui va a watt, 2 watt, 4 watt, intanto in città già lo usai, no? Potremmo mettere anche 100 milliwatt, una volta avevo provato, avevo messo un watt dall'apparato che mi permetteva di metterlo e poi cosa ZG, riduttore di potenza, te la riduce a un decimo, avevo roba di 100 milliwatt giù, quindi tra... Poi a quando arrivare l'antenna magari erano meno, però 100 milliwatt mi sentivano tutti a Sassari, capito? I punti, dintorni, là, senza andare in certa protore, cioè, allora vabbè, è un conto. Ma il problema è che non sente neanche a Giulio, cioè, ma ti rendi conto? Non sente neanche a Giulio. È una cosa allucinante, cioè che in queste condizioni che è l'antenna, dice che non sente, a Giulio non lo sente, a meno che Giulio non mette 4 watt o 5 watt, se no come usa normale Giulio non lo sente. Sì, guarda, lui ha un'attenuazione drammatica ora come ora, che lui arrivava con 2 watt 9,25 qua, 9,25, adesso è circa 9, meno di 9, quasi 9 dai, e questo è anche secco, diciamo 9 dai, da 9 a 9,25, e anche in ricezione ha un'attenuazione terrificante per non sentire Giulio. È come avere un'antenna da macchina messa davanti al balcone a quei livelli. Sì, alla fine è così. Caspita, non sentire neanche a Giulio. E che ci vuoi fare? Guarda, ripeto, la mano d'opera, gli attrezzi ci sono, ma se questo non si decide a salire sul testo, No, guarda, non mi fiderei proprio per niente. Non mi fiderei. Lì, il problema è un altro. È come certi ricevitori digitali terrestri, adesso non per quanto riguarda il filtraggio, ma certi sono meno sensibili. Uno dice, oh, sono tutti uguali. No, non sono tutti uguali, perché io qua ho attaccato un telesystem e un di Quest, Digital Quest. E allora il telesystem mi perdeva un po' di canali, no? Il segnale, per quanto buono, non ottimo, è buono, non li vedeva. Andava a vedere dalle informazioni e il segnale risultava basso, o la qualità del segnale bassa. E DigiQuest invece beccava tutti i canali che il telesystem non prendeva. E quindi non è vero che dicono sono tutti uguali, escono da una fabbrica, cambiano le marche, ma dentro è identico. No, non identico, proprio per niente. L'ho visto con tanti decoder. Addirittura ce n'era uno piccolo, sai, quelli che hanno la forma della scarpa, cioè non avevi proprio lo scatolato, era una cosa minuscola da mettere dietro, non l'abbiamo avuto tanti anni fa, e prendeva, tu devi vedere la sensibilità di quel decoder, superiore a quegli altri esterni e anche a quelli interni della TV, per dire, ed era un telesystem in quel caso, però quello era sensibile. Altri erano molto molto peggio invece. Eh sì, ne uno di quelli che si piegano. Io adesso, Luca, che non ho già l'orologio, sono mezzo nudo, mi se vuoi allego foto. Dimmi che ore sono. Sono le 7:05. Cacchio, e allora io mi devo borotalcare, asciugare bene e vestire, dai, che sono in maniche di... In maniche di niente, dai, sono la capatoio e buco, mi devo vestire. Dai, se posso entro dopo. A dopo, ciao. Ciao anche da Tarino, ciao. Sì, ciao Marco, ciao a dopo. Non devo tirare il borotalco però, eh. Beh, briciola. Beh, buona è questa pasta. Buonasera. Tino, tu sei? Eia. Ciao T. Sì, prima mi sono affacciato a chiedere all'andata a Tino, e beh, com'è questa pasta? È andato a cucinare, la dice sfavolosa, doveva essere la detta sua. O sta mangiando o non è rientrato ancora? Allora, mi dici com'è questa radio? Bella, prepotente. Prova un po'. Sto usando il President Lincoln con un più 5. Più 5, è il tono, conta che sto usando sempre l'omologato, ormai sto usando sempre solo quello, perché mi sono buriato di cambiare radio, francamente. No, io ogni tanto le cambio, giusto per metterle in funzione. Il tono è a 2, devo alzare, abbassare, com'è? Oddio, no, alzarlo no, assolutamente alzarlo no, allora meglio tenerlo così, a 0 secondo me la fa troppo cupa, se vuoi provare prova. Vabbè, guarda, posso abbassare, ho abbassato leggermente il tono, vediamo se ha cambiato. Oddio, con il mio orecchiometro poco e niente, se non me l'avessi detto forse non me ne sarei nemmeno accorto. Conta che qua l'altoparlantino è piccolo, questo è un baracchino intomologato, di quelli di gomma, come li puoi chiamare, e quindi non è che sia un granché di fedeltà come riproduzione, però a me andava bene anche prima. Sì, diciamo che lo sto provando, ma guarda, lo abbasso ancora, così è a 0, proprio a 0, adesso metto a 0, questi 1, 1, 1, 1, 1. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, vediamo un pochino se ha cambiato qualcosa. Sì, qualcosina, però non è così abissale, diciamo, non è un problema, cioè va bene a 0,3, poi chiama magari un altro parlante professionale, vediamo se c'è Luca a proposito all'ascolto che era qua. Va bene. L'amplificazione la lascio così, allora non la diminuisco, non aumento, dimmi tu perché se do fastidio magari la basso. No, l'amplificazione è buona, decisa, ma non è fastidiosa, non è quelle terrificanti spaccaorecchie, capito? Ma va bene anche in città, si sente un po' di qualche rumore in fondo, voci eccetera, ogni tanto. Va bene, vedo che qua non è rientrato nessuno, io mi stavo preparando il caffè, però freddo, cioè me lo sto facendo raffreddare un po' in frigo, perché francamente di bella roba calda proprio. Me lo volevo fare shakerato addirittura, ma non c'ho cubetti pronti, li ho usati tutti. Beh, allora lascio così. Anche io lo gradisco, allora tu pensa che la mattina faccio una caffettiera, lo metto in un barattolo ermetico, diciamo, così me lo porto al lavoro, e lo metto tassativamente a fianco alla bottiglia ghiacciata, perché il caffè freddo a me piace tantissimo. Prima di berlo però alto gli do una shakerata, una shakerata proprio, così fa la cremina buona, e verso le 10-11 ce lo sbaffiamo quasi tutto, ce la lasciamo giusto un po' per dopo pranzo, diciamo. Sì, quello anche mamma lo faceva. Fare il caffè con la mocca, metterlo in una bottiglietta, magari in vetro, che diventava più freddo, è un figo. Quando ne avevi voglia, attingevi, quando serviva. Vabbè, io adesso ho fatto con la macchinetta per far prima, ho messo nei bicchierini di carta e ho messo in freezer, e fra 10 minuti è pronto. Al bar mi piaceva molto lo shakerato, però a botto di 2 euro, 2,50 euro, prima e adesso sarà di più, non è più tempo di spendere 2,50 euro per un caffè. Vabbè, 2,50 euro no, ma 1,20 euro sì, lo so. No, io sinceramente mi è rimasto impresso questa cosa, tu sai benissimo che mio padre aveva un bar, no? Molta gente lo gradiva a freddo, quindi lui le faceva un bel po', lo metteva una bottiglia, lo metteva in frigo, e quando glielo chiedevano ce l'aveva bello pronto, e quindi da lì io ho iniziato a assaggiarla, a farlo, e mi è piaciuto, e anche io attingevo con la bottiglia. Ciappa, vediamo, sarei 8 meno... Vecchio, l'orologio è fermo qua. Che ore sono ti? Adesso te lo dico. Allora, sono le 8 meno 4 minuti. Ah, ok. Va bene, qua c'ho caldo, c'ho la canottiera, ho fatto il bagno, quant'è? Mezz'ora fa, tre quarti d'ora, come non averne fatto? La doccia, c'è di nuovo caldo. Hai ragione. No, io vabbè. Diciamo che mi ha guardato un bel film, e adesso non sono messo alla radio, però in sala c'è il condizionatore acceso, quindi sinceramente non ho sofferto il caldo. Niente, le sto operando perché è inutile soffrire, ma per poi risparmiare chissà cosa. Stai male, basta, inizia a sudare e quant'altro. Vabbè, c'è così. Allora, te rilassi, fai qualche cosina in più, purtroppo, di energia, però almeno la salute è quella che conta. Figa. Io ultima chiamata al generale Natalino e Luca, ci siete ancora? State mangiando? Nulla, sto baracchino, che non voglio di svendere tutto qua, sta andando e peggiorando. Anche nuove entrate alla fine non entrano più, non sento Carlo da mesi. No, mesi no, vabbè, troppo. Però anche lui ci avrà impegni, casini, eccetera. Non sta più entrando nessuno. Natalino adesso mi vendo tutto, lo dice ogni giorno, è da 30 anni che lo dice. Sì, guarda, anche io avevo quell'intenzione lì qualche anno fa, ma ti parlo di forse 4-5 anni fa, stavo quasi per venderlo, e venderlo anche bene, non è che stavo perdendo, ma alla fine, ma caspita, tanto la passione che bene o male, non sarà oggi, non sarà mai, ma qualche mese, qualche anno, poi ti riviene, ti devi ricomprare tutto. Ho preferito fare un stand bike di un annetto, non lo accendevo neanche, anzi veramente per dire la verità lo accendevo, ma giusto sabato e domenica lo accendevo senza neanche ascoltare, solo acceso, volume basso, giusto per fargli riprendere un pochino la carica anche a loro. Dopodiché, vabbè, ci siamo rimessi a rimodulare. Secondo me non conviene venderlo, conviene magari conservarlo e con le mie voglie magari tirarlo fuori dall'armadio e ricollegare tutto e provarci. No, infatti, perché io mi ricordo anche di gente che ne so, primo battibecco alla radio o roba del genere, e tutto, ne sfasciava tutto, toglieva pure l'antenna, prendeva tutto, dopo un anno si pentiva e doveva ripiazzare l'antenna, ricomprare ammentatori, cosa, cioè, così non ha senso. uno si pulirà il tutto, oppure tanto vale lasciarlo fermo, ogni tanto accendere, vedere chi c'è, fare il capolino e così dai. Sì, io adesso stamattina io ho una radio anche in un container che quando faccio l'inverno lo utilizzo, quel container lo utilizzo l'inverno per farmi un po' di carne, salsiccia, pancetta, roba qua, no? E ce l'ho lì per ascolto più che altro, allora questo microfono collegato alla radio, ogni tanto magari chiamano anche da lì. Ho deciso stamattina che adesso smonto il microfono, lo stacco e proviamo a mettere un'altra radio. E sto provando questa radio perché è una radio che vale anche questa, un Presidente Lincoln che era fermo da un po' e lo sto provando per farlo andare più che altro. Lincoln, il vecchio modello, no? Quello con i tasti colorati. Io mi ricordo appena era uscito, a me non piaceva niente per via di quei tasti colorati anche, cioè mi sembrava, invece poi ha avuto successo perché comunque era un apparecchio al mod, con saccaggio di canali, varie funzioni, poi vabbè qualche pecca magari l'avrà avuta, come tutti un po' i baracchini, qualcuno scivolava, non dico dello stesso apparato, di altri apparati, qualcuno magari in FM rendeva male eccetera, però poi è durato un sacco di anni anche come fama, capito, come è stato molto ambito. Adesso vendono il nuovo, il Lincoln, però cioè questi stanno arrivando a 260-280 euro, un baracchino, ma stiamo scherzando? No, Marco, io sinceramente parlando ho un'altra linea di acquisto su queste cose qua, perché spendere quei soldi lì e compro una KF, anche se adattato, però è molto meglio di un baracchino, anche un baracchino per dire che dico, ma questo è stato elaborato a 120 canali, a raccolto quello e quell'altro, sempre un baracchino da 100 euro, non da 400 o 500 euro, poi c'è gente che, oddio, li vuole spendere che li spenda pure. Sì, ma hanno alzato i prezzi a dismisura, con la scusa anche del Covid, per esempio il, non il Lincoln, quell'altro, il... Mannaggia, non mi viene, quello piccolino altoparlante frontale, la versione 2, dai, insomma, io l'ho preso a filo dei 200 e... fai 200, dai, adesso lo stesso apparato, tipo due anni dopo, un anno e mezzo dopo, 265 euro più la spedizione, poi ci vuole la modifica dei canali, altri 10 o 15 euro in più, e lì arrivi a, cioè, a pigliare un 440 quasi, oddio, magari un 440 no, ma per spendere 300 euro, cavolo, un 680 magari può venire, adesso non so come sono quotati i K, io ero rimasto intorno alle 300, anni fa ci prendevi un 140 solo, cioè solo la radio, il microfono in solito a parte, adesso non so le quotazioni, e comunque a trovarlo i 440, 430 volevo dire, scusate, il 440 è quello che c'ha il problema VCO, i puntini, è un casino, quello lo aggiusti una volta e lo rifà magari, e no, alla fine non vale la pena. 430 invece chi ce l'ha se lo tiene, se non tanto. E ce ne sono anche ben pochi in giro, credomi. Sì, io ti dirò la verità, io ho avuto il 140, il 430, il 450, e dal 430 non l'ho mai avuto, non l'ho mai avuto, però è una radio che va bene, io il 440 a me piaceva molto di più come radio. E poi c'è dal 440 al 450, per dire, sono passato dal 450, l'unica cosa che non mi piaceva era lo Smith, ma diciamo la verità, poi questa è un'abitudine, ma come radio è più selettiva, è molto migliore. No, è vero, il 450 era LED. Sì, 440 ad aspetto a me piaceva molto di più del 140, più manopole anziché quegli slider orribili, anche quello della potenza, cioè lo muovi di mezzo millimetro, c'hai cioè troppo pochi watt, lo muovi di mezzo millimetro a destra, se ne hai troppi, o troppo pochi troppi, era troppo, non era lineare, capito? Vabbè, per il resto io l'ho avuto 140, non mi ha entusiasmato, quindi, boh, alla fine. bene, soprattutto baracchini, tanto mi passare su un canale in AM alla fine, ma basta persino questo. Sì, hai ragione, hai ragione. Io non sono, io a me piace più l'HF, quindi anche perché ci puoi fare tante altre cose, ti fai la radio, te la, un po' il microfono te lo puoi aggiustare, sei utilizzatore paramedico, insomma, ci sono tante altre cose da fare. E poi hai ragione tu, nel 450, per dire, anche quella è una sorta di regolazione millimetrica per quanto riguarda il watt, però riesce a aggiustare il sistema, mentre invece nel 140 fino a dopo ti saliva manetta, è vero, però vabbè. Sono radio ormai che, diciamo, che hanno i loro anni, però vanno sempre bene. Sì, va bene. A me, io sono stato molto contento della carne 5,5, anche che, se non sbaglio, l'hai avuto anche tu. Sì, ce l'ho tuttora, poco sfruttato, perché anch'io non è che sto sempre a caccia di ex, cioè, al fine mi rompo le scatole. Però vedi, molto venduto, roba di in tutto il mondo, con tanti nomi, addirittura marcato Kenwood in Russia, marcato Kenwood, proprio la Kenwood l'ha comprato e marcato come apparecchio per i 10 metri. Tu immagina la soddisfazione di averlo marcato Kenwood, quello l'avrei voluto trovare, a costo di avere solo il chassis, la mascherina, mi cambia lì quella, va bene. Sto notando invece che persino gli spagnoli, che erano per la banda laterale, sto sentendo parecchi in FM da un po' di tempo, anzi sempre più in FM e un po' meno in banda laterale. Addirittura sai che l'FM è sbarcata negli Stati Uniti, mentre loro per decenni hanno avuto sempre apparecchi omologati e non con AM ed SSB, adesso anche l'FM è sbarcata là, forse li vogliono un po' indottrinare a usare meno banda passante, meno kilohertz, perché sai, anche lì, cioè, certi, quando fanno il Super Bowl sul 6, se si occupano 30 kHz di larghezza, ma quelle sono spaccavecchie veramente. E li vogliono forse abituare a essere un po' più contenuti come emissioni. Praticamente l'FM si è ambientato, tu sul canale a fianco non senti nulla, anche se hai un segnale forte vicino a te, vai nel canale adiacente, quindi 10 kHz di differenza, non senti nulla. Sì, solo vabbè, non è un po' più pulita la modulazione, non è amplificata come l'AM, però va bene, va anche oltre l'AM, però nel senso che vai sempre più in lontananza, i watt te li dà tutti e così. Va bene, no, a me è piaciuto. Poi questo che l'ho accoppiato con un amplificatore e uno ZG, va alla grande. Io mi ero appassionato un po' anche al Galaxy Flutto, quello sempre veicolare, che però, avendo gli anni che aveva, aggiustava una cosa e ne rompeva un'altra, aggiustava una cosa e ne rompeva un'altra ancora. Alla fine ho optato per prendermi una radio un pochino più recente, però come il Galaxy, perché effettivamente diciamo che la qualità è quella. Io sai qual era il coso più seccante con il Pluto, con i Superstar, quello di scivolare in frequenza, cioè tu a freddo lo accendevi, che andavi in SSB e da lì a quando a scaldare, a fermarsi definitivamente, aveva una deriva seccante, quando scivolavo di frequenza, in trasmissione mi pare soprattutto, anche di 400 Hz o forse non di più, E quindi finché non scaldava bene, che era a temperatura di regime, dovevi sempre stare a ricentrarti, magari anche per chi ti ascoltava. No, perché fai DX, certi ti dicono, non è che ti centra col clavifier, dice sei spostato di frequenza. Ah, vabbè, c'è il clavifier, c'è il manatore, centrami, no, ti sto chiamando. E lì non hanno voglia, a parte ho sentito cose anche peggiori durante DX. Ne stava parlando forse Franco di Sorso l'altro giorno, tipo che è stato cacciato perché non aveva nominativo, gli hanno cacciato la freccia.